Si segnala ai responsabili della sicurezza che il passeggero Gianluca Nicoletti viaggia da settimane in ogni treno possibile. Quando arriva a destinazione sale nuovamente su un altro convoglio e riparte, apparentemente senza meta. Non sembra pericoloso, ma durante il viaggio cambia spesso scompartimento, intrattiene strane conversazioni con altri passeggeri, a volte legge, spesso telefona. Riceve messaggi al suo computer e sembra che il tempo non abbia per lui valore. Alcuni informatori riferiscono che alla fine del suo viaggio scombinato, ad aspettarlo, ci sia una donna. Quale rapporto lo leghi a tale donna, dalle nostre fonti, non è stato specificato. In ogni caso continuate a seguirlo, mentre il treno va. Il treno va. Perché c'è sempre una donna che aspetta dove terminano i binari. Un programma di Gianluca Nicoletti e Fabrizio Intonti. Viaggiando in treno, naturalmente ho affinato l'abitudine di creare il database dei viaggiatori. Cioè li classifico a seconda di varie categorie, di come sono vestiti, di come si siedono, del casino che fanno durante il viaggio, se si tolgono o no le scarpe, del loro odore, del tono della loro voce, dell'affabilità con cui trattano il personale di servizio, della maniera di rivendicare il loro posto: qua questo posto era mio, magari lo scompartimento è vuoto, e anche dal modello di apparecchiatura elettronica che hanno tra le mani. Ci sono quelli arcaici ancora con i vecchi laptop, quelli piccolini da povero, che stanno lì, li aprono, poi vedi che giocano con il solitario delle carte, un vecchio gioco degli anni 90. Ci sono quelli naturalmente con l'ultimo modello di computer strafighetto, che appena si siedono lo stentano subito. Ci sono quelli con gli smartphone di vario tipo, due grossi filoni, capito? Non sto qui a citare i marchi, che determinano comunque delle scelte di vita. Poi ci sono quelli che hanno telefoni lievemente antiquati, soprattutto i pensionati, gli anziani, hanno dei telefonini ancora, però con i tasti grossi, con i numeri che si vedono, i numeri li hanno segnati in un foglietto, chiamano sempre i figli, le mogli, le famiglie: siamo partiti, siamo arrivati a Bologna, siamo arrivati a Firenze, stiamo arrivando, come state, cosa mangiate, cosa si fa per cena. Ma non mi era mai capitato di vedere una donna, una giovane piacente donna, perfettamente vestita, completamente a suo agio, sembrava nata nel treno, con un telefono così antico, così vecchio. Così vecchio da o fare vergogna o essere sintomo distintivo di una sorta di snobismo telefonico. Sembrava un telefono vintage, ostentato, come quelli che si mettono abiti d'antan per darsi l'apparenza di consumati dandy. Mi è bastato guardare però le riviste che stava sfogliando e ho capito il perché. È una donna che sicuramente non vive in Italia, pensa in Australia a vedere quello che legge, e probabilmente ha comperato in fretta e furia una sim italiana e non aveva altro posto dove infilarla che un vecchio telefono che ha trovato in un cassetto residuale di qualche zia, nonno, parente che l'ospita in questo periodo italiano. Li trovi molto cambiati i treni italiani da quando li frequentavi te? È terribile. Cosa è cambiato? È cambiato tutto, cioè nel senso che... Beh, almeno puoi caricare il telefono adesso. Sì, quello è vero. Cioè ci sono ovviamente questi treni bellissimi ad alta velocità e quelli sono perfetti, funzionali, anche se, vabbè, c'è sempre il problema della prenotazione, quindi ci sono dei pro e dei contro. E che io ho preso un treno da Venezia a Milano, e praticamente nessuno era al posto assegnato, la carrozza era semi vuota, per cui tutti, compreso me, avevamo scelto il posto preferito. Però lo faccio anch'io, questo. Cioè io, diciamo, sì, però, il mio sconto principale con le persone che vengono lì con il biglietto in mano: scusi, 7B, qua ci sto io, e il treno è vuoto. Dico sì, vabbè, mi alzo, ma sembra quasi che, non so, che sia un'offesa al Padre Eterno se si siedono sul sedile accanto. Quando il treno è vuoto, quando il treno è pieno, è chiaro che uno ha diritto ad avere il suo posto. Molte volte vedo scompartimenti vuoti e la gente vuole per forza sedersi sull'unico posto in cui stai te, perché è il loro posto. sennò sembra che c'è un ordine cosmico. È proprio così, capisci? Questa è la differenza fra l'Italia e l'Australia. In Australia invece ognuno siede sul suo posto, sempre. Esatto, perché la società è fatta in un certo modo e dei segnali devono essere chiari e precisi. Il tuo posto assegnato è quello e tu non ci piove. Vai lì. Da quanti anni non viaggiavi in un treno italiano e quanto hai viaggiato in un treno italiano prima di andare in Australia? Allora, io ho viaggiato per 20 anni, cioè ho lavorato. Lavoravi sul treno? Cos'eri, il capotreno? Prima conduttore, poi capotreno. Ah, hai guidato i treni te? No, si chiama conduttore, ma in realtà è il bigliettaio. Semplicemente. E il conduttore come si chiama, quello che conduce? È il macchinista. Ah, pensa te. Al macchinista guida, il conduttore è quello che fa i biglietti, che controlla. È quello che, sì, quello che controlla i biglietti. E il controllore cos'è? Quello che pulisce? No, il controllore è il capo di tutti, cioè quello. Il capo dei conduttori. Superiore. Sì, è il capo dei conduttori e dei capitreni. Quindi se chiamassi la signora che mi chiede il biglietto era dirle conduttore. Sì, però adesso non esistono più, adesso c'è una qualifica unica, credo. E sono tutti uguali, cioè sono. A tuoi tempi non c'era l'addetto ai servizi igienici, quello che gira con la borsetta? Quello è il pulitore. Pulitore. Si informano i signori passeggeri che è vietato sostare nelle toilette durante le fermate intermedie del treno. Ma cosa c'è dentro con la borsetta? Io mi chiedo sempre, questo gira, questo signore, lo vedo sempre, molto dignitoso, con una borsetta al collo. Lo chiamano sempre, scusi, guardi, c'è il mio. Entra, che c'è in quella borsetta? C'è la carta igienica. Solo carta igienica? Non lo so, c'è quel liquido che fra l'altro per fortuna adesso ha cambiato, prima c'era quel liquido schifoso. Cioè immagino ci sia come una sorta di raggio laser disincrostatore, per lui entra tutto preciso, pulito, tranquillo, senza, con una borsettina che tiene al collo, esce il bagno è pulito, c'è qualcosa di magico, come il gonnellino di Etabeta, chissà cosa tira fuori dalla borsetta. C'è anche uno scopettino, credo. Ah, cioè, se lo e se lo porta sempre dietro? Credo di sì, però cioè, io quando ho smesso, io praticamente ho... gli ultimi treni su quali ho lavorato sono stati i pendolini, che adesso non sono il famoso pendolino non esiste più. Sì. Ed erano i primi treni veloci che andavano. Sì, il pendolino Roma-Milano sembrava una cosa. Ho preso il pendolino, mamma mia. Sì, che avventura. Sì, sì, sì. Ma cos'è? Roba anni 80, mi sembra. Infatti. No, 90. 90, sì. 90, sì. E a te piaceva quel lavoro? Giravi in divisa, avevi una bella divisa? Sì, avevo una divisa. No, io ho scelto proprio questo lavoro, infatti, perché mi piacevano tanto, tanto i treni e proprio mi batteva il cuore quando... Avevi proprio una passione viscerale, quasi feticistica. Sì, sì, poi i miei compagni di liceo mi snobbavano perché io ero praticamente quella che aveva fatto meno successo, meno carriera di tutti, quindi... Però c'è il lavoro che a te piaceva. Però... Sì, mi piaceva, però in realtà, insomma, era un lavoro misero. Ma cioè... perché misero? Secondo quale parametro? Sono delle belle signore, allegre, simpatiche, hanno delle fantastiche divise, conoscono un sacco di gente, sorridono. Non so. Sì, allora era un mondo molto maschilista, perché le donne erano pochissime. Ma tu eri una delle poche? Sì, ero non sono stata nel primo gruppo, quelle hanno cominciato una decina d'anni prima di me, perché prima innanzitutto era una struttura paramilitare, cioè aveva ancora tutta una serie di caratteristiche. Ah, proprio gerarchia militare, coi gradi? Sì. Hai mai avuto momenti in cui hai dovuto impugnare la tua autorità e cacciare una persona che non aveva pagato il biglietto? Ma quello succedeva spesso, però... E cosa facevi in quel caso? Ma in genere si faceva scendere, dipende, allora, tu dovevi prendere le generalità, cioè se non avevano i documenti dovevi consegnarlo alla polizia, però c'era la terza opzione, scendere o affermarlo. Beh, oggi lo vedo molto spesso, soprattutto sono stranieri clandestini che non hanno documenti, sì. Lo vedo situazioni di imbarazzo, poi vedo le tue colleghe nuove molto, molto efficienti in questo. Il treno va. Bentornati. informati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. C'erano i barboni classici, per esempio c'era una persona, una donna, che vestiva sempre di rosa, era solo vestita di rosa ed era pulitissima. Però era senza dimora. Ma aveva 90 anni. Aveva, e viveva sui treni? E viveva sui treni, sì, probabilmente sui treni, su qualche dormitorio, Caritas. E questa signora poi girava, la sua vita era nel treno, una era vestita, nomade vestita, era famosa, era vestita di rosa, perché c'era una sorta, cioè i barboni di allora, che adesso credo che siano diversi. Oggi si chiamano senza fissa dimora. C'erano, per esempio, degli ubriachi che venivano svizzeri, che viaggiavano sempre da Chiasso, passavano la notte praticamente. E venivano a vomitare nei treni italiani. Venivano cacciati dalle guardie svizzere, arrivavano fino a Milano. Ah, E poi tornavano indietro. Allora, smaltivano la stazione di centrale e poi tornavano in Svizzera sobri. E poi tornavano in Svizzera. Infatti li trovavo poi al mattino sul treno delle 4 che partiva da Milano. Ed era impossibile. Un giorno, una volta, uno mi ha sputato in un occhio parlando. E allora io sono andata a risciacquarmi l'occhio perché avevo paura di chissà quale. T'ha ustionato la pupilla. Sì. Beh, sai, lo sputo dell'alcolizzato è acido. No, ma sai, insomma, era una cosa così. Però ma hai conosciuto molte persone facendo il conduttore? No, non ho conosciuto, ho sempre mantenuto così l'aspetto, il riserbo, la distanza professionale. Cioè ma sai quanti ti ci avranno provato, figurati. No, assolutamente no, perché non è la figura dell'hostess che, cioè io ormai, forse magari ora eri il mastino da guardia, quindi non avevano il coraggio per questo. Sì, ho sempre, l'unica persona che ho conosciuto era una persona che già conoscevo, cioè infatti è una storia molto molto strana, perché era un viaggiatore che è venuto a protestare con me e poi l'ho incontrato più di una volta e poi alla fine mi sono resa conto che era sposato alla mia, una delle migliori amiche mie, quindi era nata una storia d'amore, però purtroppo era sposato. No, non era nata una storia d'amore, ma era nata una conoscenza, però lui aveva cambiato nome e professione e quindi non avevo collegato. Quindi sei fermata proprio sull'orlo del precipizio? Sì. Stavi cedendo? Stavo cedendo, però fuori servizio quando... Vabbè, mica uno cede ovunque, quando la natura chiama. E quindi non hai ceduto perché era il marito della tua amica. E com'è avvenuta la rivelazione? Come hai fatto a capirlo? No, veramente non mi ricordo. Comunque, in qualche maniera, dai, c'era un piccolo, un'attesa. Sì, certo. Ma se un essere umano sotto quella divisa batteva un cuore, penso, no? Ma avevo una vita privata. Che vuol dire? Noi siamo esseri polimorfi e pronti a ogni esperienza. Sì, quello è vero. Quindi, allora, questo signore era nato una simpatia lungo i binari. Spogliata la tua divisa, tornavi ad essere una donna e quindi... Lo incontravi. Un giorno hai capito che aveva uno pseudonimo. No, lui adesso quando l'ho incontrato si chiamava con un certo nome. Faccio un esempio, si chiamava Angelo. Invece? E poi è diventato, si chiamava Angiolino, è diventato Angelo. Ma lui lo faceva apposta perché sapeva che tu conoscevi la moglie o è stato un caso? No. Allora, lui si chiamava Angelo, l'avevo incontrato a Venezia con questa mia amica e faceva il fotografo, mentre invece quando l'ho incontrato faceva il giornalista e aveva un altro nome. Vabbè, anche i fotografi sono giornalisti, quindi è rimasto nel settore. La tua amica se l'era sposato però. Esatto, la mia amica se l'era sposato. E tu non l'avevi riconosciuto? No, e né lui aveva riconosciuto me, perché io ero la fidanzata di un altro amico. Di un altro, che in quel momento era... Quando è avvenuta la fulminazione, che hai capito che in realtà non c'era trippa per gatti? Lui ha cominciato a parlare della moglie e alla fine... Hai capito. Pian piano, no, ho chiamato un mio amico che conosceva entrambi, ho detto, ma quello lì e quello là. E allora, alla fine... Ma come mai ti parlava della moglie, scusa? Per dirti che era una cosa distruttiva, perché ti parla della moglie se in realtà ambiva alla tua, diciamo, conoscenza più approfondita? Non lo so, perché non, per dirti quanto andava male con la moglie, che era solo, queste cose qua? No, ma credo che abbia accennato soltanto così. Vabbè, così è andata pure questa. In 10 anni, quanti anni hai fatto di treno te? 10? Quasi venti. In 20 anni questa è stata la cosa più ricordabile dal punto di vista dell'uscita delle regole? No, dal punto, cioè nel senso, una persona che ho conosciuto nel momento in cui avevo una funzione, un ruolo professionale. Poi dopo viaggiando fuori servizio, perché questo succede, cioè nel senso che... Perché voi non pagavate allora il biglietto, potete viaggiare quanto volevate, in quanto dipendenti delle ferrovie. Sì, sì, sì. Quindi facevi dei grandi viaggi te quando non lavoravi. Sì, ho viaggiato tutta Europa. Lo premetto perché so che molte persone che ascoltano il mio rabondare sul treno probabilmente in questo momento potrebbero essere vicino a qualcosa di commestibile, e quindi se siete particolarmente sensibili o con lo stomaco particolarmente delicato, magari per un attimo abbassate il tono della radio, ma se siete curiosi vi farò raccontare da questa signora, oggi australiana, una volta capotreno e conduttore di treno, quelli che sono i momenti più tragici di chi vive lavorando su un treno, quando qualcuno decide di farla finita e di buttarsi sotto un treno. Senti, ma ci sono stati dei momenti anche tragici, di paura, di sgomento, nei 20 anni di servizio sulle ferrovie? Ma sì, perché io quando appunto, come ti ho detto, sono andata a lavorare in ferrovia, ero entusiasta e avevo anche una visione romantica del treno. Che per esempio, una delle cose più romantiche è il famoso suicidio di Anna Karenina. Sì, romantico perché fa parte di un romanzo immortale, però non credo sia una bella spettacolo vedere una persona suicidata sotto un treno. Esatto. Cioè, spezzatino a livelli di carne Simmental, non lo so. Esatto, peggio, sì. Peggio, tu l'hai visti? Infatti la prima volta che ne ho visto uno io non ero coinvolta direttamente, cioè nel senso che era dalla linea opposta. E dove si era buttato? Dalla stazione? Ma appunto questo che ho visto di fronte, nel quale non ero coinvolta, mi ha sconvolto, perché ho visto che appunto le persone sono ridotte a polpette. Io lo so, anche... perché ho dato un esame in medicina legale, mi ricordo, quando feci giurisprudenza, poi cambiai facoltà. E nel manuale medicina legale c'erano tutti gli esempi di morti su treno e si vedevano, apparentemente erano divisi in 3 pezzi. No, ma che 3 pezzi? Proprio, cioè per esempio, ecco, quello invece che ha coinvolto me, io ero capotreno e c'è stato appunto un suicidio e quindi io sono dovuta scendere. Perché si stendono sulle rotaie e aspettano? In genere si buttano all'improvviso, almeno perché... Da dove? Dallo scompartimento? No. Sotto? Comunque si buttano all'improvviso sotto il treno in corsa. Ma come ve ne accorgete? Ci se ne accorge chi guida? Sì, certo. Cavoli! Ma no, più che altro, cioè, è il rumore, è il rumore pazzesco, anche solo quando si investe un cane. E come sente un rumore di attrita carne, poi? Sono le ossa. Sono le ossa che sembrano come petardi. Esplodono? Che esplodono, sì. Ah. Per un cane succede di frequente, un cane, di investirlo. Sì. In campagna succede. Sì. A me è successo un paio ma di ci volte. Si ferma, no? Per i cani? No, nel caso dei cani no. Mentre invece tu che hai fatto medicina legale... Sì. Ma come si fa a capire la differenza se un cane è un cristiano? Però? Perché tu senti la botta di ossa che scoppiano, e dai un'occhiata nello specchietto retrovisore, vedi la coda del cane, cioè, vabbè, non ci fermiamo. Vedi... se il macchinista vede che è un cane, logico, procede. Certo. Sa che una persona deve obbligatoriamente... Si ferma. Si ferma e va a vedere sotto le ruote cosa è rimasto. Esatto. Devi, praticamente il compito del capotreno è verificare se ci sono resti umani sotto le ruote. Proprio così dice il protocollo. Verificare resti umani. E a te l'hai visti? Quella volta solo l'hai visto o altre volte? Allora, no. Nel caso mio non c'erano resti umani sotto il treno. Però erano tutti sparsi sulla massicciata e devono essere presenziati. Ci vogliono 50 persone, se ogni persona presidia una polpetta? No, praticamente, vabbè, poi alla fine sono riuscita a organizzare, il treno è riuscito a ripartire perché appunto non aveva, poi ci hanno fermato nella stazione successiva, c'è stato un controllo ancora, chi è rimasto a presidiare è stato il capotreno del treno che... E non resta nulla di riconoscibile in quel caso, molto difficile. Non c'era assolutamente niente. Io ti sono molto grato perché soprattutto questa parte finale è stata interessante e originale. Buon viaggio, buon proseguimento. A me non è mai capitato di vedere qualcuno finire sotto il treno e spero che non capiterà mai. Ciao. Ciao. Il treno va. Bentornati a bordo. Si ricorda che per informazioni e prenotazioni è attivo l'indirizzo mail iltrenova@radio24.it. Mi viene spesso di riflettere su quello che arzigogolano i miei compagni di viaggio quando stanno al telefono. Mi viene da immaginare, da sperare, da augurarmi molte volte che stiano organizzando incontri amorosi che avverranno al loro arrivo in qualche stazione, lontana probabilmente dalla stazione da cui sono partiti, lontana dai liciti affetti, lontana dai sensi di colpa. Capisco che è difficile resistere a una mattina di primavera, soprattutto se arriva una mail con questa intestazione. Infedeltà, libertà, voglie clandestine, desideri, fantasie. Nulla di che, premetto, dello stesso filone di messaggio che millantano prodigiosi guadagni o mirabolanti sviluppi virili. Di solito è robetta che finisce nella casella spam e nemmeno nessuno fa più la fatica di leggere di cosa si tratti. Questa offerta però ha la particolarità di essere così surreale nella promessa da meritare un ulteriore approfondimento. Sei tentato da un'esperienza extraconiugale senza problemi? Su questo sito troverai partner sessuali con le tue stesse aspettative. Ammesso che l'approccio sia unicamente orientato alla ricerca sociologica, anche senza porsi alcun problema di etica e morale, persino il più inveterato dei libertini qualche domanda sull'opportunità di abboccare all'amo se la porrebbe. Come mai potrà essere possibile mantenere quelle indispensabili caratteristiche di clandestinità, segretezza e invisibilità, le sole che rendono possibile al minimo del rischio scoperta un'attività adulterina? Eppure chi propone l'offerta sembra non tener conto del legittimo sospetto che sia irreale proporre seriamente una community che si autodefinisca composta da coniugalmente infedeli. Immagina l'incontro fatidico. Siete nella stessa stanza. Uno sull'altro, ardore, sensualità, intensità. Sei pronto a fare nuovi intriganti incontri? Ma va, c'è un oggettivo blocco dell'immaginario invece. Come potrebbe dormire sonni tranquilli la persona che sa di essere inserita in un database di altri uomini e donne, tutti digitalmente marchiati come disponibili a fare esperienze extraconiugali? La mail in questione mostrava un grosso pulsante rosso con su scritto «Entra», incitandomi a cliccarci sopra con la promessa di nuove vibrazioni con una persona sconosciuta. Per minare ancor più profondamente alla base persino il più solido dei matrimoni, mi sono fatte baluginare una serie di immagini di sorridenti signore che sarebbero in attesa di un incontro discreto. Già, io penso, dove mai potrà essere la discrezione se già io le vedo in faccia e conosco la loro intenzione? A rotazione appaiono in primo piano con una loro breve schedatura di presentazione come quella di Vittoria, 36 anni. Dopo 10 anni di matrimonio sento il bisogno di sentirmi emancipata sessualmente. Cerco un uomo che voglia farmi provare nuove sensazioni. Lo cerca in rete? Potrebbe anche andarle bene, chi lo sa, ma è certo che quella non è certo la più discreta maniera per rendere altri partecipi al suo progetto sperimentale. Come la vedo io, potrebbe vederla chiunque si iscriva al servizio, il legittimo marito per primo. Entrare non costa nulla. Con una registrazione veloce è possibile buttarsi anonimamente nel vortice delle tentazioni. In effetti, una volta dentro, le signore in attesa del tram chiamato Desiderio ci stanno davvero. O meglio, ci sono le loro foto, i loro nickname. Il target è ben assortito e presenta alcune varianti di un modello base di adultera onirica, come potrebbe immaginarla uno sprovveduto questuante di fughe domestiche che fosse arrivato fino a quel punto. Sì, perché oltre non si va. Per leggere ed inviare messaggi, guardare la gallery, interagire, chattare, bisogna pagare. Per iniziare a consumare questo benedetto adulterio, occorre quindi un abbonamento premium che non costa molto, in verità, 29,99 € mensili, ma funge sicuramente da ulteriore deterrente alla lussuria per chi si voglia fare delle domande sul concetto di segretezza, se non altro perché si paga con la carta di credito e si aggiungerebbero nuovi angoscianti elementi di prova a ogni illegittima scappatella, le cui tracce abbiamo già lasciato ben visibili da veri autolesionisti per l'eternità digitale. Se dovessi dividere in rubriche radiofoniche il mio viaggiare in treno ininterrotto e continuo, ne metterei una che è gli incontri al vagone ristorante. Ci vado abbastanza di rado, ma quando ci vado mi ci fermo, mi ci soffermo. Mi piace pensare di essere su una sorta di Oriente Express, anche se sono semplicemente due tavolini di formica ribaltabili, l'odore sempre della stessa minestrina, dello stesso arrostino ribollito, delle stesse verdurine ripassate con l'aglio, o non con l'aglio, seconda dei gusti. Beh, questa volta l'uomo è molto chiaramente una persona che tiene al suo aspetto, non particolarmente bello, ma molto curato, una sorta di cura antica, quella di signori che andavano tutti i giorni dal barbiere, quando ancora non si chiamava parrucchiere o coiffeur, che andavano tutti i giorni a farsi la manicure, che si vestivano sempre con una camicia bianca impeccabile. È lievemente stempiato, ha qualche segno dell'età incipiente, ma è uno che la sa lunga e alla fine, bicchierino di spumantino dopo bicchierino di spumantino, ammette quella che è la sua professione, fare felici signore in crisi di solitudine. Sono un accompagnatore per donne, faccio questo lavoro da qualche anno, ho iniziato come spogliarellista e poi strada facendo ho intrapresa questa nuova strada, questo nuovo cammino, perché io non volevo fare il gigolo, ma chiaramente mi sono trovato a fare questo lavoro un po' per necessità, un po' perché anche lo sapevo fare. Si pensa che questo lavoro sia abbastanza facile, ma è un lavoro molto tecnico e psicologico, non come può sembrare visto da fuori. Non faccio questo lavoro per soldi, ma lo faccio anche per passione, mi piacciono le donne, mi piace farle essere felici in tutti i sensi. Pagare un uomo è una cosa moderna, ma nello stesso tempo le persone non sono ancora pronte a questa cosa. Mentre per un uomo pagare una donna è stato sempre una cosa normale, il contrario c'è un po' di tabù. Quindi questa è la prima cosa, è la morale che le blocca. Però hanno una forte spinta di provare, perché un po' la trasgressione, un po' la noia, un po' il desiderio, perché internet ormai è una vetrina, quindi come quando passi in un viale e vedi una bella vetrina, hai voglia di entrare. Quindi quello fa sì che le persone si incuriosiscano. Prevalentemente la donna che chiama un escort, un accompagnatore, in questo caso me, è una donna diciamo tra i 30 e i 45 anni, una donna curata, ben vestita, economicamente agiata, dove normalmente vive con un marito oppure può anche non averlo, però la cosa fondamentale che riguardano tutte queste donne è la noia, è la solitudine e la voglia di trasgredire. Quindi abbiamo a che fare sempre con donne molto abbastanza affascinanti, non dico bellissime, ma neanche bruttissime, dove hanno modo di andare dal parrucchiere, hanno la loro estetista, il loro chirurgo plastico e alla voce di queste cose c'è anche la voce accompagnatore. Certe di tanti gigolò che ho conosciuto, intervistato, di cui ho avuto modo di raccogliere le confidenze, ce ne fosse uno che mi ha detto che va con le cozze, con le brutte vecchie puzzolenti, che va con gli uomini, che è una delle clientele più esigenti in uomini che si vendono. Tutti hanno sempre donne molto affascinanti, molto belle, molto raffinate, molto sposate, molto di gusti eccelsi, che però si annoiano e loro sono l'alternativa alla loro noia. Chissà perché invece quando vanno gli uomini a puttane sono biechi, sono viziosi, sono dei porci. Le donne sono sempre delle estete raffinate che devono rompere questa sorta di spleen esistenziale che le attraversa e si concentra succedono al bel gigolo con la pancetta che mangia l'arrostino di fronte a me. Io ho un sito internet che è www.royescort.com, dove loro hanno un primo accesso e vedono qualche foto e qualche mia presentazione, addirittura ho un blog che c'è anche qualche mio video dove mi sentono parlare, mi vedono gesticolare, e lì c'è la prima, diciamo, la prima visione. Poi c'è, iniziano con un'email, mi mandano un'email, le più timide, se no altre mi chiamano subito, però normalmente la donna prima manda un'email per chiarire o per avere delle informazioni a riguardo sui prezzi. Magari una donna che è la prima volta che intraprende questa cosa vuole saperne un po' di più. Ci sono molte ragazze giovani che stranamente fanno uso di questo servizio. Certo, chi se lo può permettere? Ci sono dei casi dove magari lei non ha molta esperienza di sesso e non vuole fare una brutta figura con il nuovo ragazzo, quindi chiama me per fare allenamento. Oppure c'è quella che magari non ha mai raggiunto l'orgasmo e non sa i motivi, quindi chiama un professionista per vedere se il problema sono di alzo o il suo. Poi c'è anche la donna che affitta per un mezz'ora, che tu devi essere anche pronto. Io ho dei casi che a volte ci si ritrova nei motel dove lei arriva a mezz'ora di tempo, io devo essere anche pronto all'uso, insomma. Io a volte ho anche delle sorprese, perché vedo delle belle donne, delle belle ragazze anche giovani, e mi domando, ma queste potrebbero avere qualsiasi altro uomo, qualsiasi altro ragazzo, perché chiamano me? E qualcuna mi ha dato anche la risposta, perché effettivamente io non lascio strascichi, non mando il messaggino del giorno dopo, non voglio una storia dopo aver fatto sesso con loro, perché molto spesso le donne, sembra strano, ma a volte vogliono farsi una semplice quindi non vogliono strascichi, non vogliono persone che poi il giorno dopo le richiamano oppure le assillino con delle telefonate, con dei messaggini. Quindi secondo me è questa la vera ragione. E poi anche perché effettivamente hanno voglia di trasgredire, hanno voglia di provare un'emozione nuova. Una serata classica potrebbe essere quella di una prima conoscenza, dove una donna ti contatta per un'eventuale cena e si presuppone anche per un dopo cena. Però la donna, siccome diciamo lavora molto più, è molto più mentale, ha bisogno di un po' di tempo per passare al dopo cena, quindi non sa se effettivamente il dopo cena ci sarà. Quindi si inizia con una cena rilassante, dove il posto normalmente lo scelgono loro, perché io mi trasferisco direttamente nel loro campo d'azione, nella loro città, nel loro paese, quindi io, spostandomi da loro, sono loro che organizzano il tutto. Ci si guarda, ci si respira, ci si annusa, nel senso di conoscenza, e lì scattano i primi preliminari, perché il gioco inizia proprio in questo momento, perché se uno ha fascino è lì che scatta la molla per la donna, e quindi è lì che si risolve il dopo cena. A volte capita che la donna in questione non sia di mio gradimento. La cosa che odio di più è la cattiva pulizia e la cattiva igiene, quella è la cosa che mi delisce un po' di più. Però ecco, questo è un caso abbastanza limite. Io normalmente funziono e sono testato. Se non funziono, io mi spiace per le donne, ma do la colpa a loro, perché vuol dire che c'è qualcosa che ha scattato in me, perché io normalmente sono testato e funziono sempre. Se qualche volta mi cade di non funzionare, credo che ci sia uno di questi particolari, o l'igiene o l'aspetto fisico o qualcosa di caratteriale che fa sì che io non scatti, anche se ci riesco quasi sempre. Però non è la stessa cosa un conto farlo con una certa passione e irruenza, un conto farlo così tanto per farlo. La donna lo percepisce che c'è un calo. Molte donne cercano di far ingelosire il proprio uomo oppure stimolarlo andando a cena con una terza persona solo per il fatto di farlo ingelosire, non perché sono attratti da me. Quindi molto spesso mi capita di andare a delle cene oppure trovarmi in delle feste, ma solo per far ingelosire una terza persona, e a volte rischio pure, perché qualche volta qualcuno mi ha messo le mani addosso. Però poi io spiego vigliaccamente tutto e me la cavo. Adesso ultimamente mi ha chiamato una ragazza che è incinta da 6 mesi e il suo ragazzo se ne è scappato proprio per questo motivo, e lei vuole un ragazzo da presentare ai genitori. Normalmente una donna che ti chiama una volta molto spesso ti richiama anche una seconda, ma poi non è che sia così trasgressivo, sono una persona normale, proprio per questo forse ho fascino. Sono una persona semplice che le sa mettere al loro agio, e questo è importante. Capita che qualcuno si innamora di te. Purtroppo a me il contrario non è mai successo, insomma, io non, difficilmente, sono un po' agnostico all'innamoramento, quindi io prendo un po' da ogni donna, quindi alla fine della giornata, alla fine del mese, ne ho fatta una intera, quindi un po' da una, un po' dall'altra, ho l'amore che mi manca, perché anch'io ho bisogno d'amore. Io mi sento una sorta di missionario, nel senso, io faccio solo del bene. sono loro che chiamano me, non sono io che chiamo loro, quindi è un servizio che io offro, loro hanno bisogno di me, quindi io sono il loro salvatore per quel momento, perché loro hanno bisogno di me, quindi io faccio solo una cosa benevola, loro mi ringraziano pagandomi, ma anche non solo, quindi non mi sento umiliato, anzi per me è un servizio offerto all'umanità, quindi dovrebbero pagarmi anche la prologo quando... Il treno va. Siamo arrivati all'audiolettera, siamo arrivati alla richiesta di soluzione di vicende amorose. Mi stupisco sempre di più perché si sta abbassando l'età anagrafica delle persone che mi chiedono consiglio. O io mi sto invecchiando, sto diventando un grande vecchio, al di sopra di ogni sospetto, quindi non più rattuso come mi accusano molti ascoltatori, alla quale ci si può anche confidare. Questa è una ragazza molto giovane che mi offre, come fosse un delicato omaggio, il suo dramma d'amore, che di drammatico ha ben poco, ma forse anche di amoroso. Caro Gianluca, ascolto spesso il tuo programma e non avrei mai pensato di doverti scrivere quello che fra poco leggerai. Mi sono lasciata da poco con il ragazzo con il quale avevo una relazione da 5 anni. Ci siamo messi insieme quando io avevo 22 anni e lui 25. Entrambi frequentavamo l'università. Di lui mi ha sempre colpito la sicurezza che emanava e che mi trasmetteva quando eravamo insieme. Sapeva sempre confortarmi anche quando passavo dei momenti di insicurezza e pensavo di lasciare l'università. Nei suoi modi di fare è sempre stato più maturo dei ragazzi della sua età. Una volta finiti gli studi, ha deciso di non continuare con nessuna specializzazione e di trovarsi un'occupazione, mentre io mi sono iscritta a un master. Da un anno ormai viveva da solo nella sua casa che aveva preso in affitto. Io lo andavo a trovare qualche volta. Lo ammetto, mi aveva chiesto di convivere, ma io, un po' per paura, un po' per pigrizia, non me la sono sentita. Così, ogni volta che accennava al discorso, gli rispondevo che terminati gli studi, anche io mi sarei sentita più indipendente e libera di andarmene di casa. La sua reazione era sempre controllata. Mi diceva che capiva e che mi avrebbe aspettato. Ed ecco che arriviamo a un mese fa. Così di punto in bianco lui mi dice che ha bisogno di una pausa di riflessione, che si sente confuso e ha bisogno di riflettere, ma che mi ama e che la crisi che sta passando non dipende da me, ma riguarda la sua necessità di capire cosa vuole davvero dalla vita. Io sgrano gli occhi e subito scatta dentro di me la paura di essere lasciata, ma cerco di tenerla a bada perché ho avuto sempre fiducia in lui. L'unica cosa che gli chiedo è se è successo qualcosa che io non so. Lui mi risponde che va tutto bene, sente soltanto l'esigenza di capire meglio le scelte che vuole intraprendere nella sua vita. Passano 3-4 giorni da quel fatidico discorso e io cerco di non farmi sentire. Gli lascio tutto il tempo per fare chiarezza, per riflettere senza dover pensare ad altro. Poi i giorni diventano settimane e il suo silenzio comincia a essere insopportabile. Così decido di fargli una sorpresa e mi presento a casa sua. Lo trovo fuori dal portone mentre sta uscendo di corsa. Mi dice che va di fretta, che ha un impegno e che se voglio possiamo parlare in macchina mentre mi riaccompagna a casa. Amareggiata, ma decisa comunque a parlargli, accetto e salgo in macchina. Una volta seduta, mi rendo conto che tra i due sedili ci sono due lattine di birra vuote. La mia mente comincia a lavorare freneticamente alla ricerca di una soluzione banale a ciò che ho appena visto, ma va troppo veloce per soffermarsi sulle varie probabilità. Così mi volto a guardarlo e l'unica cosa che riesco a dirgli è: «Ma tu non bevi birra, hai sempre detto che fa schifo». Lui mi fissa e con un'aria colpevole mi dice: «Beh, è iniziata a piacermi». In quel momento la testa smette di pensare e si inchioda sull'unica probabilità che non avevo mai preso in considerazione. A un'altra. Dopo minuti disperati di urla, lui confessa: ha iniziato a frequentarsi con una ragazza già da un paio di mesi, ben prima di farmi il suo discorso di ragazzo in crisi mistica. Dopo avergli mollato un ceffone, lo guardo per l'ultima volta e mi sembra di vederlo per la prima, come se avessi davanti a me uno sconosciuto. Ahimè, ci siamo caduti subito, Dopo pochi istanti già ho capito la materia, ma non perché io sia un veggente, sia una persona di grande esperienza, ma semplicemente per il copione è sempre lo stesso. Quando si chiede il periodo di riflessione, il rapporto è già finito. E il periodo di riflessione viene sempre giustificato come una sorta di momento esistenziale in cui uno deve fare il punto sulla propria vita. Devo capire da che parte andare. Scusa, caro o cara, in questo momento ho bisogno di capire la mia vita, quindi ho bisogno di una pausa di riflessione. Se si volesse poco soffrire e si volesse elaborare il prima possibile il lutto incipiente, perché l'amore, quando chiede qualcuno una pausa di riflessione, è già un malato terminale, sarebbe il caso di chiuderla in quel momento. Naturalmente nessuno si rassegna e tutti pensano e si illudono, come la nostra cara ragazza, che la pausa di riflessione sia veramente una pausa, possibilmente anche molto breve, e che la riflessione sia proficua per riprendere il rapporto più forte e vigoroso che prima. Ma non è mai così. Ora, a distanza di 2 settimane dalla rottura, comincio a tormentarmi con 1000 domande. Se avessi mandato la mia paura e la mia pigrizia a quel paese e avessi accettato di convivere, ora staremmo ancora insieme? Perché ha lasciato che mi tormentassi per settimane senza dirmi la verità? Ma soprattutto, qual è la verità? L'unico messaggio che mi ha mandato dopo l'accaduto, e al quale io non ho mai risposto, diceva più o meno così: ti ho ferita e di questo mi dispiace, ma le nostre vite non vanno più nella stessa direzione. Io corro da una parte e tu cammini dall'altra. Ma quando si ama qualcuno, non bisognerebbe rispettare i ritmi dell'altro e camminare tenendosi per mano? È ridicolo, ma la cosa che mi fa pensare di più è proprio quella birra. Non il pensiero che lui l'avesse bevuta con un'altra. Più di ogni altra cosa mi fa imbestialire il fatto che l'abbia bevuta lui, perché forse vuol dire che era già cambiato da un po', che aveva altre esigenze e che non mi teneva più per mano. Ma io, presa dalle mie insicurezze e paure, non me ne sono mai accorta. Perché non ci accorgiamo mai dei cambiamenti delle persone con cui stiamo insieme? E perché gli altri cambiano senza farcelo capire? Marzia. Invece la nostra ascoltatrice, adonta di tutto quello che ho già detto, si tormenta. Si fa le domande, i sensi di colpa. Se io allora avessi fatto, lui non avrebbe fatto. No, già, figuriamoci. Già il sintomo del male era dentro il vostro rapporto, lo rodeva dall'interno, non c'era niente da fare. Fortunata te che non sei andata a convivere con questo signore, che avresti dovuto dividere comunque anche il pesante fardello del tradimento palese sotto gli occhi. E si pone di fronte a un particolare apparentemente trascurabile: le lattine di birra. Ma lui odiava la birra. Perché adesso, traduco e interpreto, la passione per questa donna gli ha fatto rivedere le sue posizioni su qualcosa che sembrava indissolubilmente deciso a non fare mai. Beh, potrei fare migliaia di esempi. Di donne che improvvisamente diventano appassionate di calcio, di uomini che improvvisamente si profumano, si lavano e si depilano, di donne che improvvisamente si appassionano di politica, di metafisica, di scienza, di arte, di matematica applicata, di uomini che improvvisamente diventano appassionati di uncinetto, di punto croce oppure di danza classica. Ahimè, la passione amorosa permette qualsiasi mercimonio, qualsiasi cambiamento. Nessuna scelta è reversibile quando il ricatto sensuale la mette sul piatto della bilancia. Se mi vuoi, devi bere birra. Se mi vuoi, devi venire con me allo spettacolo benefico di danza classica. Se mi vuoi, devi stare a sentire i miei noiosissimi sermoni sul discorso che farò domani ai miei elettori. Rassegnati, ahimè, tu non sei stata capace a far cambiare nulla delle sue abitudini. Quella è arrivata in un attimo, con uno sbattito di ciglia e un ancheggiar di labbra, è riuscita semplicemente a farne un alcolista. Bum my fine, living a life I can't leave behind.